Fujiko Factory, sono le 16.04, abbiamo appena ascoltato Orfani dei Cieli di Giorgio Canali, che a proposito è in collegamento qui con noi, quindi lo salutiamo. Buon pomeriggio Giorgio! Alleluia! Alleluia, alleluia! Hai scritto tu la canzone, quindi se dura tanto... Ok, allora vorremmo iniziare a farti subito la prima domanda, cioè come è nato il tuo progetto? Il progetto Rosso Fuoco, parli di questa cosa? Sì, e dell'ultimo album. Dell'ultimo album che esce fra due giorni, mi sa, sì. Niente, c'era bisogno di un'altra canzone di merda con la testa dentro? No, ne abbiamo fatte 11, tutto lì, perché forse avevamo voglia di farlo, forse con 7 anni passati dall'ultimo album di inediti finalmente ho trovato qualcosa da raccontare di nuovo e l'ho fatto, e mi ride anche il culo, come si dice in Romagna, perché erano veramente stati 7 anni di blackout totale creativo. Sai quando non ti viene fuori neanche una parola e dici ma dai, le ho già dette queste cose, le ho dette anche meglio, perché devo stare a dire, a ripetermi. E boh, in febbraio improvvisamente, col fatto di aver cambiato casa da Ferrara, mi sono trasferito a Correggio nell'Emilia più profonda, proprio quella subpadana, e evidentemente c'è stato un déclic, come si dice in francese, qualcosa che ha portato a farmi partire e a scrivere. Poi il progetto Rosso Fuoco è una cosa che va avanti ormai dal 2001, quindi è preistoria praticamente, è la mia vita, è tutto quanto. Nel 98, ovvero 20 anni fa, avevo fatto un album da solo che si chiamava Che fine ha fatto la Slotot, e poi la band che ha cominciato a portare in giro questo album è diventata Rosso Fuoco, quindi da lì in poi le cose le abbiamo scritte tutti insieme, sempre insieme, e anche in questo album una buona metà sono più frutto di improvvisazioni insieme, quindi... Certo, inseparabile. Questo è quanto, sì. E quindi cosa ascolteremo e quali temi hai trattato in questo tuo nuovo album? Ho parlato di me, come sempre, che evidentemente quando si arriva a 60 anni hai più cose da dire, visto che ci sono arrivato quest'anno in luglio, 60. Sono nella terza età, quella terrificante. E ho parlato di me, di quello che ci sta attorno. Quello che ci sta attorno non è un granché, perché fa cagare tutto quanto. Basta accendere la TV, ascoltare la radio, andare su internet o leggere i giornali, però ci accontentiamo di quello che c'è, ne parliamo, e parlo molto di me, che in fondo sono la persona più importante della mia vita, no? Effettivamente, come è giusto che sia. Rispetto agli album precedenti c'è qualche novità, qualche diversità che spicca? Ma no, non credo, sai, il filologico è sempre lo stesso, è sempre Rosso Fuoco, diciamo che è un po' più calmo di qualche album precedente. Se vogliamo trovarci un parallelo tra i nostri album, direi che assomiglia di più a Nostra Signora della Dinamite come atmosfere, però sai, il mondo fa finta di cambiare, facciamo finta di cambiare anche noi, e quindi magari qualcuno si troverà qualche novità. Di sicuro l'album è un po' più pulito dei precedenti, più riflessivo anche. Certo, ma invece ci vuoi anche dire quando sarà il tuo concerto qui a Bologna, l'orario, il posto e anche le altre tappe, se ne hai voglia? Beh, venerdì presentiamo l'album, quindi al Locomotive, venerdì 5 ottobre, tra 2 giorni. La cosa buffa è che l'album esce il giorno stesso, quindi ci troveremo con una platea di gente che non ha mai sentito un pezzo, no, uno solo l'ha sentito, perché abbiamo fatto un'anticipazione una quindicina di giorni fa di una canzone che si chiama Fuochi Supplementari, che è uscita sul net, quello lì un po' dei nostri fan lo conoscono, gli altri pezzi o se li imparano dalla mattina quando andando a comprare il disco nei negozi, oppure si troveranno 10 pezzi che non ha mai sentito. Infatti sono anche un po' curioso, perché di solito con Rosso Fuoco si è sempre suonato le canzoni degli album nuovi prima che uscissero gli album, almeno 6-7 pezzi erano già in scaletta da almeno 3-4 mesi ogni volta, quindi c'è una novità. Sì, non c'era quel tipo di aspettativa. Poi sono curioso di vedere le facce della gente con 10 pezzi che non conosce. Temo l'espressione perplessa della serie, che cazzo stanno dicendo? però vabbè, il disco è bellissimo, non lo dico mai di aver fatto il disco più bello. Questa volta invece sono convinto, perché forse c'era proprio bisogno dopo 7 anni. Sai, l'ultimo album di 2 anni fa era un album di cover che erano sempre molto molto Rosso Fuoco come stile, però non erano canzoni nostre, non erano testi miei, quindi 7 anni dopo sono molto molto soddisfatto di quello che è venuto fuori. A noi ci hai già convinto comunque. Benissimo. No, sono talmente convinto io che guarda, convinco anche un musulmano a credere in qualcos'altro, sono sicuro. Fantastico. Allora Giorgio, noi ti ringraziamo molto della tua disponibilità per questa intervista, e adesso lasciamo agli ascoltatori ascoltare l'estratto del tuo nuovo album, che è Fuochi Supplementari, giusto? Sì, Fuochi Supplementari. Perfetto. Un bel pezzo. Perfetto, allora... è diverso dal solito Rosso Fuoco, però secondo me è una gran bella canzone. Perfetto, allora ti ringraziamo ancora, ti auguriamo buona giornata e in bocca al lupo per il concerto. Bene. Grazie crepa, ancora. Crepa, non crepa il lupo, amico mio, quindi crepa tu. Va grazie bene? Mille, a presto. Ciao. Ciao.